Netanyahu era già un premier che aveva particolari problemi. Sappiamo che oltre ai problemi giudiziari che comunque lo perseguitavano da un po' di tempo, aveva anche problemi di natura politica, nel senso che il suo governo era il frutto di un'alleanza con la destra più estrema, la destra che rappresenta proprio l'anima coloniale più religioso sionista di Israele. In una precedente intervista proprio con voi avevo parlato di questa destra messianica. Quindi subito dopo il 7 ottobre c'era stato un tentativo invece di superare questa fase sicuramente difficile per Israele con un governo, per così dire, di unità nazionale che abbracciasse anche, diciamo, la parte più moderata tra virgolette di Israele, quindi Benny Gantz, Yair Lapid e la parte che attualmente costituisce l'opposizione. L'evoluzione però della guerra non ha fatto sì che ci fosse una risoluzione lampo, sono quindi emerse tutte le contraddizioni interne alla politica e alla società israeliana, per cui adesso ci ritroviamo con un premier che ha moltissime pressioni dalla parte più appunto a destra, dalla parte messianica, la pressione a continuare la guerra. Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich l'hanno detto a chiare lettere: qualora la guerra si dovesse fermare ora, il governo cadrebbe il giorno seguente. Dall'altra invece ci sono personaggi come Yair Lapid che spingono per un accordo con la resistenza palestinese affinché possano essere liberati gli ostaggi. Questo si inasprirà ancora di più nelle prossime ore, visto il disastro della battaglia di Khan Yunis, dove almeno 34 soldati tra Marasi e Khan Yunis sono morti tra ieri sera e questa mattina. Ecco, abbiamo visto ieri il tentativo di irruzione alla Knesset anche dei familiari degli ostaggi, anche loro esercitano pressioni su Netanyahu. Esatto, la cosa più incredibile è che le pressioni a Netanyahu in questo momento e in generale ad Israele arrivano o dal fronte della resistenza, appunto quindi sul campo a Gaza, oppure proprio dal fronte interno. Sono molto più forti le pressioni sul fronte interno dei familiari dei prigionieri di guerra rispetto alle pressioni internazionali, che sono comunque ancora molto, in Occidente ovviamente mi riferisco, sono ancora molto deboli e sono ancora molto nella sfera della preoccupazione, si esprime appunto perplessità, preoccupazione, quando invece c'è un genocidio in corso e a tutti gli effetti stiamo assistendo a qualcosa di davvero inedito nella storia più recente. Che sbocco potrà avere questa situazione? A mio avviso inizialmente Israele pensava di poterla risolvere con celerità. All'inizio probabilmente l'impressione era quella di poterla risolvere addirittura senza nemmeno procedere con l'invasione da terra, ma semplicemente con una campagna ad alta intensità di bombardamenti e con l'assedio, che ricordiamo è stato usato, e questo ovviamente contravviene al diritto internazionale, come strumento di guerra, quindi riducendo la popolazione alla fame e alla sete. Questa cosa non è andata a buon fine per la resilienza incredibile del popolo palestinese e quindi si è proceduto poi alla fase dell'invasione da terra, che ovviamente anche lì si pensava di poter risolvere, e questo anche da un recente report del New York Times, si pensava di poterla risolvere nel giro di qualche settimana, ma la forte resistenza sul campo esercitata proprio dai gruppi, dalle brigate di resistenza palestinese ha fatto sì che attualmente non ci sia ancora nessuna conquista di posizione all'interno di Gaza. A questo punto Israele, che sa che questa è una guerra per così dire esistenziale, cioè nel momento in cui si ferma la guerra Israele saprebbe di essere in pericolo da un punto di vista della sicurezza sia nazionale sia nella regione, Israele sta cercando, o quantomeno questo governo sta cercando di fare di tutto per rimischiare le carte, tirare dentro attori che al momento non sono direttamente coinvolti, e da qui nascono le provocazioni all'Iran, le tensioni sempre più forti al confine con il Libano. Da giovedì scorso Yoav Gallant, il ministro della difesa israeliano, sta parlando ripetutamente di un attacco in Libano. Ieri Hezbollah ha detto che aveva sventato un tentativo di infiltrazione da terra. Quindi l'impressione è che questo governo voglia procedere a un ampliamento del conflitto che sia di natura regionale, poi ovviamente non si potrà sapere come questo evolverà purtroppo. Per il momento però l'impressione è che appunto si voglia distrarre un pochino con azioni sempre più intense anche in West Bank, perché qualora noi non fossimo così concentrati su Gaza capiremmo che la situazione in West Bank è davvero drammatica, e con l'ampliamento del conflitto su altri fronti, provocando sia l'Iran con azioni, con assassini mirati che abbiamo visto sempre più frequenti, e sia appunto il Libano con bombardamenti nelle zone del sud del Libano.